Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Giovedì 4 febbraio, buongiorno di nuovo a tutte e tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere e rieccovi a Liberi Dentro e Duradio, il nostro programma che fa da ponte tra la città e il quartiere carcere cittadino. Io sono sempre Caterina. Buongiorno Ignazio, buongiorno a te da Montesole, io invece sono Caterina Bombarda e siamo con voi questa mezz'ora, anche questa mattina, su Radio Città Fujiko e al canale 636 di Teletricolore alle 10.30. Sì, tra quelli a cui facciamo i saluti iniziali io vorrei salutare in particolare chi da pochi giorni o da poche settimane è entrato in carcere per un periodo della vita che può essere breve o lungo, ma in questi giorni possono essere per lui, per lei, più difficili. Vi siamo vicini e vogliamo dirvi che la vita non finisce qua, anzi può ricominciare nel punto in cui siete. E noi siamo veramente accanto a voi, con tanti operatori, per cercare di ripartire. Dai coraggio, ripartiamo insieme. Ripartiamo insieme come hanno fatto i detenuti della squadra di calcio che hanno chiamato Forest, pensa te Ignazio, a Vercelli. Questi detenuti calciatori che avevano chiamato questa loro squadretta Forrest in onore del film Forrest Gump con l'interprete Tom Hanks. E ovviamente adesso che c'è la pandemia non possono più giocare a calcio, anche se il pallone gli ha regalato tantissimi sogni e la possibilità di potersi allenare e giocare insieme. Tutto questo è molto bello, perché è molto bello fare sport in generale, ma farlo anche quando si è in detenzione. Ma le misure da pandemia non potevano bloccare tutto e quindi adesso che cosa stanno facendo questi detenuti di Vercelli? Si stanno occupando di lavori di ristrutturazione. Ci sono 6 detenuti impegnati in queste opere di implementazione, stanno lavorando in squadra ma in maniera più sistematica, occupandosi di giardinaggio, stucco, decorazione, apicoltura, pensate, quindi ci sono anche corsi professionali per questo e anche per come fronteggiare la crisi sanitaria, quindi aiutarsi all'interno del carcere stesso in questo momento. È un fattore questo fondamentale, dicono loro, per l'autostima, oltre che una fonte di sostentamento per i loro familiari, siccome sono lavori che vengono pagati, giustamente. Ma io ora do la parola a te perché sempre ci puoi parlare di che cosa sta succedendo a livello mondiale, anche di quelle che sono un po' le cose che succedono intorno a noi, non solo in Italia. Certo, certo. E intorno a noi succede che tra le notizie mondiali di grande importanza c'è la notizia anche piccola di un rifugiato che arriva, di un migrante che arriva. Non siamo quelli che nascondono i problemi, certo, della migrazione, l'ingresso, anche della migrazione clandestina, sono tutte cose molto serie. E tuttavia sappiamo dell'importanza dei rapporti che si attivano attraverso questi canali. E allora questa notizia che arriva dalla fine dell'anno scorso, ma molto molto significativa, perché parla di un ragazzo che si chiama Blessing, 22 anni, nigeriano, nella casa circondariale di Bologna e le altre. Ci sono tanti ragazzi nigeriani, mi raccomando, lasciamo parte questa faccenda della droga, non è quello con cui si costruisce una vita. Ma il bello è che lui ha avuto protezione internazionale, ha fatto i percorsi, doveva reinserirsi, ma era solo. E allora cos'è successo? C'è stata una coppia, una famiglia, no? Alessia e Lorenzo, una coppia di Brindisi, che ha detto: dai Blessing, non sei ancora totalmente autonomo per vivere in Italia, per camminare con le tue gambe, anche se hai documenti, tu vieni a casa nostra. E quindi questo ragazzo è diventato parte di questa famiglia ed è una storia molto, molto bella, che dice come ci vogliono le leggi, ci vogliono le strutture, bisogna dare i documenti, ci vuole lo Stato, però nulla di questo funziona veramente se non c'è quello che è l'articolo 2 della Costituzione italiana, che è il principio di solidarietà, che viene attivato da tutti i cittadini. E la cosa carina è che Blessing ha imparato il dialetto che si parla a Brindisi. Molto bello, tra l'altro invito i nostri ascoltatori ad andare a vedere il sito di Refugees Welcome Italia, che è molto carino, è pieno anche di storie personali. E il primo stacco musicale di oggi, Ignazio, ce lo illustri tu, sempre di, stiamo parlando sempre di un Kulzum, però ti do l'attacco io perché è diventata talmente famosa questa cantante che addirittura ricevette un telegramma da Charles de Gaulle. Esatto. Nel 67 ricevette dall'allora presidente francese, importantissimo, quasi un imperatore francese, Charles de Gaulle, un telegramma di felicitazioni. Quindi era diventata popolarissima anche all'estero. Ascoltiamo oggi da lei Fata El Miad, appuntamento mancato. Eccoci sulle note di Un Kulzum e riallacciamoci adesso con notizie sempre sulla cultura, perché oggi vi vorrei parlare di un libro che è appena uscito, edito da Sellerio Editore 2020, è intitolato Gli ultimi giorni di quiete. Perché vi parlo di questo libro? Perché è un romanzo scritto da Antonio Manzini, che è uno scrittore di gialli, con protagonista questo ispettore Rocco Schiavone che indaga. E in questo romanzo l'autore si interroga, ma poi interroga noi, interroga i suoi lettori sul tema della giustizia, della vendetta, del diritto a un'altra possibilità per chi ha pagato il conto in carcere, o meglio sarebbe dire il fine pena mai, no? Di quello di cui parla anche il nostro magistrato Elvio Fassone. È una storia tratta da un fatto vero di cronaca, ambientata a Pescara, nei dintorni, e apre un infinito ventaglio di domande sul senso della giustizia legale, come pure della giustizia umana, e quindi ci obbliga, proprio noi lettori, a farsi coinvolgere dai personaggi della vicenda fino a chiedersi: ma tu, da che parte staresti? Quindi è un romanzo di punti di vista, è molto interessante. Il lettore a un certo punto si accorge che il diritto a un processo e a una pena equa sono molto importanti, come anche i sentimenti di vendetta, le vite spezzate, hanno un'importanza di cui dobbiamo veramente renderci conto. Cioè, la nostra vita è fatta di vari pezzi che non bisogna mancare di guardare molto molto attentamente. Ma veniamo sempre, passiamo a cultura, ma cultura araba, in questo caso con te, Ignazio, stiamo parlando di come vincere l'ira e adesso ti chiederei di continuare a dirci come fare, come poter fare. Consigli di vita. Certo, Caterina, mettiamo un altro anellino. Allora ricordiamo il ripasso, perché il ripasso è importantissimo nella vita. Una cosa si studia e poi si ripassa. Allora abbiamo messo il primo giorno il silenzio. Il secondo giorno cambiare aria, quando si sta per scoppiare. Il terzo giorno ricordarsi dei danni che uno ha fatto arrabbiandosi. Questo è il terzo. Il quarto giorno c'è un altro ricordo che bisogna fare, l'esempio di qualcuno che noi stimiamo particolarmente, che pensiamo che sia una persona importante per noi nella nostra vita, come si è comportato nelle situazioni di ira. Perché avere l'esempio, il qudwa in arabo, la qudwa, il buon esempio è fondamentale. Allora, per un musulmano, chiaramente l'esempio è il profeta dell'Islam. E noi sappiamo che sunna essenzialmente vuol dire seguire la tradizione, come lui parlava, come si comportava. Allora sentite cosa si dice qua. Al-iqtida'u bi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa minku al-hulm wa adam al-ghadab wa katm al-ghayz. Cioè prendere l'esempio dalle virtù del profeta di Dio, pace e benedizione su di lui, tra cui c'era la mitezza, la mancanza di ira e anche una certa capacità di fare forza sul Ghaiz, cioè sul momento dell'astio. Questo un musulmano, no? Ma, ovviamente per lui è il profeta dell'Islam l'esempio, ma un cristiano, per esempio, potrebbe avere Gesù. Gesù porgeva l'altra guancia. Beati puri di cuore, beati miti, cioè ognuno ha un buon esempio e chi non è credente o chi è buddista o chi è di un'altra religione ha un esempio davanti a sé che può servire come faro, o anche il proprio papà, la propria mamma, un amico, cioè questa memoria. Tante volte noi abbiamo la memoria delle cattiverie delle persone, le cattiverie che abbiamo subito. Ma dimentichiamo facilmente invece gli esempi buoni che fin da piccolo abbiamo avuto, un nonno, una nonna, una zia, un amico, un vicino di casa, come si è comportato nel momento in cui ha subito un'ingiustizia ed è stato capace di resistere. Allora uno può dire, ecco, adesso voglio imitare come si è comportato lui. Ti vorrei chiedere, Caterina, se tu, per esempio, chi è per te l'esempio? Un esempio di capacità di contenere l'ira che tu hai incontrato nella tua vita. Per me mio padre conta fino a 110 prima di scoppiare, però lo vedo, me ne accorgo e quindi sono io la prima che si zittisce e capisce. Bisogna sapersi vedere, sapersi ascoltare a vicenda, questo è molto importante. E per te, Ignazio? Ma per me sì, forse il papà anche, il papà devo dire che la mamma invece scoppia di più facilmente, invece il papà è un diplomatico al grado 100 proprio. Siccome abbiamo parlato di esempi, anche di stima, io lancerei un brano musicale molto bello per te di Lucio Battisti. Ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardare lo specchio dietro a te, che poi entri in chiesa e preghi piano. Intanto pensi al mondo ormai per te così lontano, per te che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Soldi accanto a lui che dorme e aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. È così, è così, pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi. Bentornati, rieccoci su Liberi Dentro. Oggi siamo al nostro appuntamento consuetudinario con il cappellano del carcere della casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna, Marcello Mattè, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Io e te e tutti quelli che ci ascoltano stiamo facendo un percorso su quello che è un po' le scritture delle varie domeniche. Naturalmente non abbiamo il tempo di leggerlo, però riassumendo, diciamo, in una pillola quello che ci siamo detti la scorsa volta, stiamo affrontando la predicazione di Gesù a partire dalla Galilea, e la scorsa volta abbiamo visto il primo miracolo di Gesù e sì, la guarigione di un uomo da uno spirito impuro, e poi dopo la chiamata dei discepoli, dei primi discepoli. E questa volta vediamo invece delle guarigioni vere e proprie, che ci fanno pensare a Gesù quasi come una sorta di medico, di dottore, che cura sia il corpo che l'anima, no? E infatti cura la suocera dell'Apostolo Pietro. E volevo chiederti che significato ha questa guarigione. Alcuni significati diversi. Un primo è che Gesù compie questo miracolo, dice l'Evangelista, uscito dalla sinagoga subito andò in casa di Simone. E in casa di Simone guarisce la sua suocera. Quindi il miracolo avviene non più nella sinagoga dove è avvenuto il primo miracolo, abbiamo visto un indemoniato guarito da questa tentazione demoniaca di essere indifferente a lasciarsi toccare dall'intervento di Dio. E Gesù compie invece questo miracolo in una casa. Quindi l'azione di Dio passa dalla sinagoga alle case dove abitiamo noi. E questo già dice qualche cosa, dice che Dio non aspetta più che andiamo in chiesa per venirci incontro, ma ci viene incontro Lui nelle nostre case. E nella casa di Simone guarisce una donna che è colpita dalla febbre. La febbre è quell'aumento morboso appunto della temperatura del corpo, ma la temperatura del corpo è qualcosa di cui abbiamo bisogno. Come per dire, la religiosità, la vita di fede è qualcosa di cui abbiamo bisogno, solo che certe volte assume delle pieghe, delle derive che ci rendono febbricitanti, ci rendono più deboli invece che più forti. Quindi la religione è qualcosa che ci indebolisce invece che qualcosa che ci rafforza. Gesù guarisce la suocera di Pietro da questa esagerazione, diciamo così, della religione, e la raggiunge con questa guarigione nella sua casa, nel suo letto. E l'Evangelista usa un verbo molto significativo per dire che la fece alzare prendendola per mano, perché usa il verbo che è quello della risurrezione, la fece risorgere prendendola per mano. Quindi le concede una nuova vita, quindi non è soltanto una guarigione da una malattia che prima o poi si ripresenterà, ma è un cambiamento radicale della propria vita. Quella suocera trova nuova vita, risorge nuova vita, e la prima cosa che fa, che cos'è? Mettersi a servire. È l'anticipo di quello che è la vita del credente. Noi siamo rinati a vita nuova non per avere un beneficio per noi stessi, ma per metterci a servire, perché la vita nuova in Gesù è proprio questa, mettersi a servire. Quindi è un esempio questa suocera di Pietro, sostanzialmente, per noi. È un modello. È un modello. Mm. E la cosa che colpisce di questo Vangelo è anche il fatto che Gesù sembra avere un grande successo per quello che sta facendo. Infatti gli portano ammalati da tutti i villaggi. Però lui sfugge a un certo punto, anche quando i discepoli dicono «Ma tutti ti cercano», lui sembra fuggire e preferire la solitudine. Come mai? È vero, questo brano di Vangelo ricorre spesso l'espressione enfatica «tutti». Gli portavano tutti i malati, tutta la città era riunita davanti alla porta. Gesù, e Pietro che va a dire a Gesù «tutti ti cercano», ed egli andò per tutta la Galilea predicando. Quindi c'è questa idealità universalistica, Gesù che vuole raggiungere tutti, non più soltanto quelli della sinagoga, non più soltanto i fedeli di stretta osservanza, ma vuole raggiungere proprio tutti. Eppure però Gesù ha paura del successo. Vedremo che è una delle tentazioni che il Satana gli propone nel deserto, quella del successo, perché ha paura di essere capito male. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere adorato, per essere osannato. Il figlio dell'uomo è venuto per dare la propria vita. e però ha paura, e lo scoprirà poi andando avanti nel percorso con i suoi discepoli, che nel momento in cui annuncia che essere figli di Dio non significa avere successo, avere onori e potere, ma significa dare la vita, anche i discepoli stessi ne avranno paura di questo messaggio. E per cui Gesù ha paura di essere capito male, ha paura della deriva miracolistica della sua missione. Bene, è il momento di continuare il flusso della nostra puntata lanciando la musica, e lanciamo... Io volevo proporvi il brano Cercami, che è un brano composto da Renato Zero, ma mi piace di più nell'interpretazione di Ferrella Mannoia, proprio perché allude a questa ricerca comune di Gesù: tutti ti cercano, ma a Dio non importa che lo cerchino tutti, importa che lo cerchi io. Musica. Cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu cercami con la volontà e l'impegno. Reinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo, lo so. Il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però questa vita ci ha puniti già. Troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, com'è finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi verrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità per sempre. E sulle note musicali di Cercami, nell'interpretazione di Fiorella Mannoia, ritorniamo con te, Marcello, con questo Vangelo di domenica 7 febbraio. E quindi abbiamo parlato della guarigione della suocera di Pietro, che per noi è come un modello, un esempio, della ricerca di Gesù di luoghi solitari, un po' forse anche per non ingrandire la sua personalità, per non vantarsi. E allora facciamo un riassunto di tutto questo. L'evangelista Marco, che è sempre molto asciutto e molto sintetico nella sua narrazione, ci vuole dare in questa pagina un tratto del diario di una giornata ordinaria di Gesù. All'inizio del suo Vangelo, Marco pone la descrizione di una vita tipo, di una giornata tipo di Gesù. Giornata che nel suo racconto inizia nel pomeriggio con l'uscita dalla sinagoga e l'ingresso in casa di Simone, dove opera, dove guarisce la suocera. Poi al mattino gli portano, venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati, tutti gli indemoniati. Gesù guarisce molti. Al mattino si alzò e andò ancora, quando era buio, in un luogo deserto e là pregava. Quindi la giornata inizia al mattino con un momento di preghiera in solitudine, nell'incontro personale con Dio Padre. Questa preghiera che viene interrotta da Simone, che gli dice: tutti ti cercano, e Gesù che si consegna di nuovo alla sua missione di percorrere tutta la Galilea per guarire le persone, per incontrare, per annunciare il Vangelo. Quindi la giornata tipo di Gesù, che inizia con la preghiera, culmina a sera con un altro momento di preghiera, e in mezzo la sua vita donata ad ogni ora del giorno verso tutti quanti, perché possa portare questa salvezza che Gesù è venuto a donarci. Grazie Marcello, e adesso ci salutiamo ritorneremo con te per commentare il Vangelo di domenica 14 febbraio e un brano lo lancio io, siccome siamo in tema miracoli, The Miracle degli U2. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, a risentirci. Eccovi, dopo le parole di Marcello Mattè, ci salutiamo, vi do appuntamento a domani con un'altra ospite, con Maria Inglese dell'ASL di Parma, dottoressa psichiatra, e noi ci salutiamo sempre con l'invito a scriverci all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna, oppure alla nostra posta mail liberidentro.eduradio@gmail.com. Un saluto a tutti e a tutte e noi ci rivediamo sempre qui, sempre domani, a Liberi Dentro.